Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta. Insieme a voi nel mese di luglio ripercorreremo assieme alcune dei temi che abbiamo affrontato nel corso della stagione, riproponendovi uno speciale, una sorta del meglio di Nessuna è Perfetta. Buon ascolto! E allora lo sapete, in questi giorni ormai devo dire quotidianamente, no? Si parla del lavoro che non c'è, del lavoro che mancherà in futuro perché le intelligenze artificiali sostituiranno tanti lavori esistenti, e poi si parla del fatto che il livello di disoccupazione femminile in Italia è più alto che altrove, chissà perché. Tutto questo però talvolta prescinde da un fatto: c'è chi il lavoro ce l'ha e non sta bene. Perché? Perché magari c'è un capo che le rovina la vita, o perché è un ambiente che non le piace, o perché le fanno fare delle cose che contrastano, per esempio, con la visione del mondo che ha. Sapete, c'è uno studio che è stato di recente pubblicato negli Stati Uniti e ripreso dal blog del Wall Street Journal, The Juggle. Ecco, secondo questo studio, alcuni lavori sono così demotivanti per chi li fa da rappresentare una vera minaccia per l'equilibrio fisico e psichico soprattutto. È vero anche che uno dice: meglio un lavoro velenoso che niente. Però, sempre un altro studio di un consulente del lavoro del Minnesota, Amy Lindgren, segnala che un lavoro tossico, un lavoro che distrugge l'anima, fa danni tali che è meglio fuggire, meglio lasciarlo, anche se non si hanno altre offerte in vista. E noi di questo parleremo, di inventarci delle alternative, e ce ne sono, e ci sono un sacco di possibilità di inventarsi un'alternativa professionale. Cambiare lavoro, superare gli ostacoli, cambiare identità, almeno professionalmente. Ecco, vorrei proprio sapere come la pensa il nostro agente provocatore di oggi, un provocatore che cambia spesso anche identità, si traveste, l'abbiamo visto di recente anche travestito da guardia rossa. Benvenuto, buona domenica Enrico Lucci, già Iena e ora la guida ogni giovedì sera di Nemo, Nessuno Escluso, su Rai 2. È un cambiamento. Per anni sei stato appunto nel team delle Iene ed era un tipo, come dire, di lavoro televisivo totalmente diverso dalla responsabilità di avere la guida di un talk show accanto a Valentina Petrini. Ti piace questo cambiamento di ruolo o è più faticoso? No, mi piace da morire. Primo perché non ce la facevo più andare in giro a prendere calci e sberle da una parte a un'altra. E poi è bellissimo quando sei conduttore, stai lì, tutti che ti idolatrano, sembri il condottiero, che c'hai la truccatrice, il parrucchiere, ti rilassi, chi ti chiama a destra, chi a sinistra. Cioè, prima se vai a fare i servizi c'è sempre a che fare con le guardie del corpo, queste cose. Invece condurre è una cosa bellissima. Senti, quindi tu non hai avuto nessun dubbio nel passare da un ruolo all'altro? No, non è un fatto di dubbio, è un fatto di età. A 53 anni voglio stare fermo su un seggiolone con una che mi controlla se ho le occhiaie, le cose così, se vanno bene i capelli, così non voglio proprio più possibilmente andare in giro a prendere sberle, hai capito? Proprio non ce la faccio, c'ho un ginocchio che mi fa male la schiena. Cioè, quindi no, c'è un'età per tutto, c'è un'età per tutto, obbligata, è una fase, sì, è una scelta obbligata. È una fase per tutto. Però va benissimo, sono felicissimo. Mi ricordo sempre che siamo dei privilegiati che possono anche fare queste cose, privilegiato prima, privilegiato dopo. Certo, sono dei privilegi che uno si conquista, nessuno te li regala. Però tu come te li sei conquistati? Questa è una puntata in cui noi parliamo di ostacoli che si trovano, no? su una via professionale, persone che magari desiderano o vorrebbero un cambiamento professionale e vedono questo macigno che spesso blocca le loro carriere. A te è successo e come l'hai schivati questo ostacolo? Io ho iniziato da una televisione minuscola di Genzano, io sono dei Castelli Romani, ho iniziato da questa televisione piccolissima, poi sono passato a una regionale, quindi non è che ho detto, a me mi sembrava impossibile arrivare o alla Rai o a Mediaset, quindi ho iniziato da una televisione piccolissima, Rete Azzurra di Genzano, poi sono passato, continuando sempre a chiedere a chi gli serviva un giornalista così, a un'altra visione che era Video 1, regionale. Dopodiché sono passato, avendo conosciuto Claudio Ferretti durante l'occupazione dell'università della Pantera, mi ci sono aggrappato come una cozza, e Claudio Ferretti, grandissimo giornalista del TG3 e una delle più belle voci della radio italiana, e mi sono aggrappato a lui come una cozza per 3 anni, lo aspettavo fuori dalla Rai, così fino a che un giorno mi ha detto che gli serviva uno. Chiamato, e da allora ma uno, perché doveva mettere in piedi un programma. E quindi insistere è servito a qualcosa. Insistere da morire, sì. Ma non poi, eri troppo molesto? Nessuno non ti diceva no, per favore, lasciami pace? Ero molestissimo, però insomma volevo dare una svolta pure alla mia carriera, anche perché dove stavo non mi pagavano più, e quindi proprio per motivo. Necessità, stavo davanti al bivio, o va bene così oppure vado in Sud America col famoso ciringuito sulla spiaggia. Invece mi ha detto bene questa cosa, perché ho incontrato una persona strepitosa come Claudio Ferretti, che mi ha dato fiducia, e sono stato 4 anni in Rai, poi mi hanno visto a Mediaset, dovevano mettere in piedi le Iene, mi hanno chiamato e sono andato lì, ho fatto il primo servizio, poi ne ho fatti 900 in 20 anni, e poi dopo mi ha chiamato la Rai per fare questa cosa qua di Nemo, e siccome mi faccio asciatica, mi fa male il ginocchio, ho detto ma perché no? E allora son venuto a provare quest'altra cosa. Tra l'altro questa esperienza conferma che una nuova vita professionale si può reinventare anche dopo i 50 anni, no? Non è obbligatorio. Sì, però voglio dirti una cosa, che bisogna essere precisi e giusti soprattutto anche nel dire queste cose qua. Perché una cosa è pensare a un cambiamento professionale quando sei in un contesto dove sei pagato bene, c'hai una visibilità, c'hai un tuo mercato, c'hai così. No, noi siamo sempre una nicchia piccolissima, dove conosci un sacco di gente, ti riesci a muovere, eccetera, eccetera. Il discorso è diverso per chi non ha la visibilità di chi fa televisione, certo. Sì, quando sento tutti questi liberali, normalmente tutti questi giornalisti liberali, che normalmente tutti figli della borghesia e figli di papà, normalmente. Che dicono che oggi bisogna reinventarsi, bisogna fare questo, bisogna reinventare, ma reinventate te, te credo, c'hai tuo padre che conosce tutti, sei il figlio della borghesia, non c'hai mai avuto problemi, certo che ti reinventi, passi da una parte all'altra, vai a dire a un metalmeccanico che esce da una fabbrica a 50 anni e si deve reinventare il lavoro, quello c'ha voglia solo di star male a fumarsi il sigaro Può essere che il futuro sia appunto questo, no? Di stare tutti al mare con il reddito di cittadinanza che da qualche parte pioverà. Bisognerà vedere chi ce lo fornirà questo. Che io farei proprio una cosa, chi ha fatto i lavori più umili, i lavori più difficili, io lo farei lavorare fino a 50 anni e poi fa bene. È come, come la naia, capito? Chi si è fatto davvero il mazzo nella vita, il mazzo, non che noi non ce lo siamo fatto, figuriamoci, ce lo siamo fatto ma in un altro modo. Ma il mazzo significa uscire da casa la mattina alle 5, andare in un posto brutto, essere sotto padrone, avere un mobbing dentro il tuo reparto e per 30 anni avere dei cacacazzi a destra e a sinistra. Quello significa per me lavorare, fare una cosa in un ambiente brutto dove senti puzza, vedi cose brutte, quello è il lavoro. Per cui tu dici quello deve essere compattato. E quello a 50 anni, secondo me, dopo deve andare al mare, glielo dobbiamo pagare noi, perché lui l'ha fatto per noi, capito? Questa è la mia idea di società. Quando senti invece tutti questi i liberali, questa figura. No, che poi a vedere sono tutti i figli di papà. No, questo è un concetto che è già stato espresso, Enrico. Esatto. Sì. Allora, intanto, prima di vederti ministro dell'economia del nostro paese, cosa che non escludiamo possa succedere. Presidente del Consiglio. Va bene. Non hai visto che sto facendo le primarie con i baffoni? Certo. Quindi, in attesa di questa tua terza vita professionale, per ora ti lasciamo la conduzione di Nemo, nessuno escluso, in onda su Rai 2. Grazie Enrico Lucci, il nostro agente provocatore. Sopravvalutato. Ciao, ciao, grazie. Dimentica i compromessi. Scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è Perfetta, stiamo ripercorrendo assieme alcuni dei temi che abbiamo affrontato nel corso della stagione e vi stiamo riproponendo una sorta del meglio di Nessuna è Perfetta. È il momento della nostra Sunday Girl. Ogni tanto, se sentite dei rumori, sono io che batto il tempo, perché mi piace sempre questa nostra sigletta di Sunday Girl e faccio rumore con i miei anelli, scusate. Allora, Gaia Manzini è una scrittrice ed è la nostra Sunday Girl di questa domenica. Benvenuta, benvenuta Gaia. Grazie mille, buongiorno, buongiorno a tutti. Ultima la luce, pubblicato da Mondadori, è il suo ultimo romanzo, ma lei ha esordito già nel 2009 con una raccolta di racconti, Nudo di famiglia, e nel 2012 il romanzo La scomparsa di Lauren Armstrong, sempre per Fandango, e nel 2014 Diario di una mamma in pappa. Ora, tutto questo tra il 2009 e il 2014, mentre però la tua vita professionale aveva avuto tutt'altro svolgimento prima. Anche tu sei una che ha cambiato vita, ha cambiato lavoro. Raccontaci. Allora, sì. Allora, io ho cominciato facendo la copywriter in un'agenzia di pubblicità e poi pian piano, che è un lavoro che mi è sempre piaciuto moltissimo e che continua a piacermi, che ogni tanto faccio ancora, però mi sono resa conto che non era esattamente la parola che io stavo cercando, perché ovviamente il copywriter gioca con le parole, ma come diceva il mio direttore creativo, il pubblicitario dice ogni volta le stesse cose, ma cerca di dirle in un modo sempre diverso. Io a un certo punto avevo bisogno di dire cose nuove, cose che mi appartenessero ovviamente di più, e ho cominciato a farlo e l'ho cominciato a farlo sempre di più, fino a che poi la mia strada principale è diventata, diciamo, quella della scrittura più distesa rispetto a quella pubblicitaria. Hai avuto paura? Hai avuto paura di lasciare il tuo lavoro che chissà quanti ambiscono a fare, perché il lavoro del copywriter è un lavoro meraviglioso, inventare claim, immaginare spot. Hai avuto paura di lasciare quello per affrontare il mare aperto di una sfida che non sapevi come poteva andare, andare bene o poteva no, non andare? No, non ho avuto paura perché, diciamo, la mela quando matura poi cade dall'albero e quindi in realtà è coinciso con un cambiamento a 360 gradi però di tutta la mia vita, nel senso che ho incontrato l'uomo della mia vita, ho lasciato la mia città che era Milano, sono venuta a Roma, ho lasciato nello stesso tempo il mio lavoro, ho lasciato tutto e poi sono diventata anche mamma, cioè la mia vita è cambiata totalmente e però questa cosa ho sentito di farla, cioè ho imparato che mi sono detta per una volta devo seguire il mio istinto e non la mia razionalità e ha funzionato. Perché la tua razionalità ti diceva rimani dove sei, tieni il lavoro sicuro, certo, che ti diceva la tua razionalità? La razionalità tira indietro, cioè ti richiama al buon senso, il buon senso sono sempre dei binari sicuri, no? Ha sempre, il buon senso è sempre una forma molto geometrica, mentre l'istinto secondo me è un fluido, no? È un'acqua che si muove e che poi piglia la forma che gli vuoi dare tu, esattamente appunto come i liquidi. E ho deciso di fare questo, di seguire l'anima più fluida e poi pian piano, e ovviamente cosa non accade in un secondo, no? Si mettono dei mattoni da una parte, dei mattoni dall'altra e prende una nuova forma. Che cos'è che ti ha dato forza? La forza di scegliere una strada e di buttarti? Mi ha dato forza la risposta positiva che veniva dall'esterno. Questo non vuol dire in termini di successo, che non intendo questo, nel senso che comunque qualsiasi lavoro, compresa la scrittura che sembra il lavoro più solitario del mondo, non si fa mai da soli, no? Sì. Esiste sempre quella cosa fondamentale del confronto e allora nel momento in cui mi sembrava, lo devo dire, non è falsa modestia, inaspettatamente che delle persone venivano toccate, no? da quello che io scrivevo, proprio come perché poi l'arte parla a una persona per volta e quindi quando vedi che hai stabilito inconsapevolmente un dialogo intimo, no? Con qualcuno, con una singola persona che poi diventano 2, 3, 4 fino a 10, 15 eccetera, allora dici beh, allora forse evidentemente questa cosa funziona ed è molto bello, anche molto, a volte è anche molto commovente. Senti Gaia, nel tuo ultimo romanzo, Ultima la luce, si parla anche del fallimento di un individuo, ma proprio quando le certezze crollano si accende la speranza di un nuovo inizio. Com'è questa accensione? Ma allora, diciamo, ovviamente questa è una storia che porta totalmente da un'altra parte, nel senso rispetto a quella che è la mia autobiografia, perché io parlo di un uomo che ha 70 anni, che è un padre, che è un marito, ormai in questo, lo colgo nel momento in cui la moglie amatissima muore, è uno che si è costruito, no, la vita, l'idea della sua felicità in un determinato modo, basandosi su dei solidi valori, e poi scopre una serie di cose e si rende conto che tutta la sua vita è stata un'illusione, quindi è un fallimento a 360 gradi, un fallimento umano. Però invece di abbattersi, di dire oddio che vita è stata, tac, che cosa succede? Succede che incontro una persona, perché poi il senso della nostra vita, spesso no, si parla sempre di trovare la propria strada, la propria, di autodeterminarci, questo è un po' il filo rosso secondo me un sentire molto comune che abbiamo in tanti, che ho avuto anch'io, che hanno molti miei coetanei, però è come se fossimo delle monadi, no? Ci si interpreta un po' così, invece le risposte spesso vengono dall'esterno e questa bisogna saperle cogliere. Allora a me è capitato spesso, mi è capitato alcune volte di conoscere, penso che sia successo a molti, di incontrare quelle persone che io non so come definirle, che sono delle portatrici sane di vita, portatrici sane di luce. Questo succede a Ivano, incontro una donna bizzarra, una donna strana, che non è necessariamente allegra, perché la luce non è soltanto quello, che ha passato tante attraverso, è passato attraverso tantissime sconfitte, tantissime vite diverse, eppure ha quell'istinto alla vita che hanno certe persone, cioè quell'andare avanti con grandissimo entusiasmo, ma perché non ne possono fare a meno, no? Che la portatrice sana di luce è una bellissima espressione, e come dicevi tu, l'importante è riconoscerle, perché magari ti capitano nel tuo cammino e potrebbero esserti utili nel momento in cui sei invece racchiuso in un avvolto, magari in un clima cupo, sei infelice sugli aspetti vari della vita, noi parliamo qui di lavoro, ma insomma ce ne possono essere tanti altri, e riconoscere una persona portatrice sana di luce, come la chiama Gaia Manzini, può essere, diciamo, vitale. Come si riconoscono? Non lo so, perché poi le verità sono sempre, no, un po' come la fede, cioè una cosa per chi ce l'ha, cioè una cosa che arriva e tu sai che è arrivato, no? Che sai che ha incontrato qualcosa di vero, ma non ti sai spiegare perché non sei in grado di riconoscerlo, ma lo riconosci immediatamente come qualcosa che ti fa stare bene, ti viene può essere anche un refolo di vento che in quel momento ti fa stare bene, ti rendi conto che stai bene in quel momento, quindi non c'è un modo di riconoscerlo. Quando incontro una persona di questo tipo, sei inondato da questa luce ed è bello abbandonarsi a questa cosa, seguire questa sensazione. Forse questa è la parte più importante, cioè non far andare avanti troppo, no? La razionalità, i freni, ma e come è appunto tipo nella storia di questo ingegnere milanese che approfitta della luce che gli viene in un momento cupissimo. Ultima, La luce è il romanzo di Gaia Manzini, che ci ha inondato di questa atmosfera in questa domenica. Io ringrazio l'autrice Gaia Manzini, grazie, la nostra grazie. Sunday Girl di questa domenica, e a presto allora, e buona lettura a chi leggerà Ultima La luce. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, se pensate che il pop coreano dei BTS non invaderà mai le discoteche europee, se pensate che 20 milioni di persone a rischio carestie in Somalia, Sud Sudan, Yemen e Nigeria non ci riguardino. This is just one of many camps for displaced people in Somaliland. They get some water from aid agencies. E se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Giornalisti, fotografi, politici, attivisti e analisti, i migliori e i più preparati, vi racconteranno la grande attualità internazionale e i temi del nostro tempo. Ogni giorno vi racconteremo come un battito d'ali dall'altra parte del mondo può scatenare tempeste anche su di noi. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun Luogo è Lontano, tutte le domeniche alle 19:10 e dal 31 luglio ogni giorno alle 16 qui su Radio 24. Nessuna è perfetta. Bentornati in questa puntata speciale di Nessuna è perfetta. Stiamo ripercorrendo assieme alcuni dei temi che abbiamo affrontato nel corso della stagione e vi stiamo riproponendo una sorta del meglio di Nessuna è perfetta. Lo sapete, di solito a questo punto noi leggiamo la mail di un ascoltatore o di un'ascoltatrice. Settimane fa era l'ascoltatore Giulio Torre che si lamentava della lentezza delle code negli uffici, soprattutto postali, sostenendo che le donne sono più lente, le impiegate donne, degli impiegati uomini. C'è stato un bel po' di polemica su quello, ma questa domenica, invece di leggervi la storia, ve la facciamo raccontare direttamente dalla sua protagonista, ricordandovi che voi potete segnalarci i vostri problemi di lavoro, le vostre domande, scrivendo a Nessuna è perfetta @radio24.it, e potete contattarci attraverso i nostri canali social su Twitter e su Facebook. La storia che vi proponiamo è quella di Stefania Gorgoglione. Stefania era una manager, lavorava presso una grande compagnia di assicurazione. E poi racconta un po' la tua storia, Stefania. Buona domenica. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitata. Allora, la mia storia appunto parte da quando ero una manager assicurativa e in carriera, lavoravo 12 ore al giorno e avevo moltissime soddisfazioni e anche un ottimo stipendio. Poi mi sono sposata e da lì il desiderio di diventare mamma era fortissimo. Però il lavoro che facevo prima proprio non riuscivo a conciliarlo in nessun modo, sia per i tempi sia per l'impegno che mi richiedeva. E ho lasciato volontariamente il lavoro per dedicarmi esclusivamente alla maternità e mi sento anche particolarmente fortunata perché so che è una scelta che poche donne possono permettersi. Ma il desiderio di ritornare al lavoro, di rimettermi di nuovo in gioco era molto forte. Quanto tempo dopo la nascita della tua bambina hai cominciato a pensare, beh, io adesso voglio tornare a lavorare? Allora, dopo 2 anni. Per 2 anni ero completamente dedicata a lei, mi sono goduta ogni giorno. Infatti non abbiamo mai dormito separate e quindi ero totalmente felice e assorbita dalla maternità. E dopo 2 anni lei era più grande, era pronta per distaccarsi e anch'io ero pronta per un primo distacco e ho cominciato a cercare delle alternative più a misura di donna e mamma. Le hai trovate guardando verso la Russia? Le ho guardate, sì, perché mi piaceva l'idea di lavorare da casa, mi piaceva l'idea di creare qualcosa di mio volevo lanciarmi in un nuovo progetto e quindi ho lanciato il progetto di un e-commerce per vendere prodotti made in Italy in Russia. Poi che è successo però? E ci ho lavorato tantissimo, perché poi partivo da zero, per cui non avevo nessuna competenza specifica, perché i miei studi mi avevano portato da altre parti. E ero quasi pronta per partire, avevo trovato anche i finanziamenti, un socio, avevo fatto business plan, avevo studiato tutto e poi è scoppiata la guerra in Ucraina e la Russia ha minacciato di chiudere i rapporti commerciali con l'Europa. E da lì mi è caduto il mondo addosso, era in estate, ho detto basta, adesso devo fermarmi un attimo e decidere cosa fare. E ci ho messo parecchio tempo prima di riprendermi e di avere di nuovo uno slancio. Quindi ti sei trovata un ostacolo, un macigno su una strada che avevi percorso con un grande entusiasmo. Assolutamente. E dove hai trovato la forza per non farti, come dire, fermare da questo blocco che si era parato davanti a te? Come sei riuscita a superarlo e a reinventarti un'altra cosa? La voglia di tornare al lavoro, la voglia di continuare a cercare una soluzione mia, quindi di conciliare famiglia e lavoro per me era la priorità. In effetti avevo comunque guardato e fatto qualche colloquio in realtà, però la forza e la voglia di stare a casa e di crearmi un lavoro mio è stata probabilmente quella la spinta più forte. E soprattutto la passione, quindi ho cercato un po' di capire quali erano le mie vere passioni e ho pensato al cibo e ai biscotti, che sono cose che faccio da sempre, da quando ero piccola. E quindi ho deciso di creare un laboratorio in casa e di vendere i biscotti che faccio a tutti. Inizialmente questo era impossibile, ho passato mesi a cercare su internet informazioni per capire se era possibile vendere legalmente cibo fatto in casa, ma non trovavo nessuna informazione. A un certo punto ho scoperto che invece c'era una legge europea che permette di produrre legalmente e di vendere come un normale laboratorio i tuoi prodotti. E quindi è nato Biscotti e Parole. E Parole. Sui tuoi biscotti ciascuno può far scrivere quello che vuole. Sì, sono biscotti personalizzati con fotografie, con immagini o con frasi, con dediche o anche con illustrazioni di artisti. E io stampo queste immagini, queste frasi con colori alimentari su una cialda in pasta di zucchero e quindi proprio per poter rendere un biscotto un qualcosa in più, quindi aggiungere un pensiero un po' più ricco alla semplicità. Senti Stefania, sei riuscita ad arrivare a break even? C'hai la possibilità di sostenerti adesso economicamente o è ancora, come dire, sei ancora nella fase diciamo iniziale? Allora, la fortuna di avere un'impresa alimentare domestica è che i costi per partire sono veramente, veramente bassi. Quindi i costi, diciamo che quasi dall'inizio si riescono a sostenere. Il guadagno è un pochino più lento, cioè avere uno stipendio, diciamo, è ancora un pochino un traguardo su cui sto lavorando. Anche perché il mio progetto, il mio prodotto è un prodotto nuovo e quindi devo ancora farmi conoscere, però col fatto che non ci sono dei costi fissi così alti come un laboratorio, come altre forme imprenditoriali, questo aiuta davvero tantissimo. Senti Stefania, ci sei mai detta, però io ho avuto questa idea di parole biscotti, questo mi consente di stare a casa, però forse col talento e con l'energia che ho avrei potuto fare molto di più. In fondo, lo studio di Harvard dice che le figlie che hanno madri che lavorano fuori casa, poi a loro volta avranno delle belle carriere e sono in genere più pagate delle altre. Diciamo che non mi sono mai pentita, perché è una scelta che ho fatto con il cuore e con una passione fortissima. Non penso che sia, anzi, penso di lavorare molto di più adesso rispetto a prima, ed è un lavoro che mi assorbe completamente 24 ore al giorno, sì. Proprio perché è un lavoro mio e quindi è un progetto che sto portando avanti con grande passione. E in più penso di dare a mia figlia invece un esempio molto bello, anche perché lei mi vede, condivide con me in casa questo lavoro e penso che in futuro possa essere invece di grandi ispirazioni sia per realizzare i propri sogni sia per seguire le proprie passioni, ma anche per vedere che chi si impegna magari può anche farcela. L'ultima cosa che ti chiedo, ci sono prossimi sogni, nuovi diciamo progetti, come ti immagini da qui a 10 anni? Ecco, me lo sono chiesto anch'io tantissimo, perché è un progetto che è partito proprio da zero e passo dopo passo sta crescendo, perché ho appena avviato l'e-commerce, quindi adesso vendo in tutta Italia i miei biscotti e l'idea di crescere mi piace tantissimo, anche perché appunto crescendo anche Alice, la mia bambina, chiaramente avrò sempre più tempo da dedicarci. Il mio sogno più grande è quello di far diventare Biscotti e Parole un franchising per donne come me, quindi di creare una realtà che sia conciliabile con la maternità e con non so, anche lavorare in casa. Quindi Stefania, tu lavori a casa dove? Perché non abbiamo detto dove vivi. Io vivo a San Donato Milanese, appena fuori Milano, e praticamente la mia casa è un appartamento normalissimo e la mia cucina è diventato il mio laboratorio. Vuoi lasciarci la tua mail, se così qualcuna vuol entrare in contatto di affari con te può trovarti? Certo, il mio sito è biscottieparole.com e la mia mail è biscottieparole@gmail.com. Grazie a Stefania Gorgoglione e buona domenica. A lei grazie, e ai suoi biscotti che ci ha fatto venire voglia di mangiare. Ecco, arrivederci, grazie. Stefania ci ha fatto venire voglia di caffè e biscotti e ci fermiamo per una piccolissima pausa, torniamo tra poco. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. L'alba dei morti viventi, il lungo addio, Ucronia, dopo un lungo silenzio e tanti altri episodi. Dylan Dog è tornato per tutta l'estate su Radio 24 e con lui Gruccio, le sue donne e i suoi nemici. Ci ritroveremo, Dylan Dog. Ci ritroveremo. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni domenica alle 20:10 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Bentornati in questa puntata speciale di Nessuna è perfetta. Stiamo ripercorrendo assieme alcuni dei temi che abbiamo affrontato nel corso della stagione e vi stiamo riproponendo una sorta del meglio di Nessuna è perfetta. Questa domenica, lo sapete, parliamo di ostacoli e di come si superano sulla nostra strada professionale. Lo facciamo con due esperti che raccontano le loro personali esperienze diverse, maturate in settori diversi ma molto affascinanti. Monica La Saponara è escape coach, cofondatrice di Hub Roma, lavorava prima nel marketing, era una manager di grandi eventi in TV importanti e oggi invece insegna ad altri come scappare da un lavoro che non piace più. Paolo Gallo, buona domenica, è capo delle risorse umane del World Economic Forum. Come sapete, la parola stessa Davos evoca questo incontro che ogni anno riunisce i potenti del mondo, ma World Economic Forum è molte altre cose che si sviluppano nel corso degli anni. E Paolo Gallo è stato, nel corso della sua carriera, che si è sviluppata quasi tutta all'estero, anzi tutta all'estero, è stato alla Banca Centrale a Washington, insomma ce lo racconterà lui stesso. Buona domenica a tutti e due. Buona domenica, grazie. Allora, intanto comincerei proprio da Paolo Gallo. La storia di Stefania, che si è trovata un ostacolo davanti a sé, continuare a lavorare nel mondo delle assicurazioni le dava soddisfazione, ma non poteva fare la mamma come avrebbe voluto farla. E quindi si è reinventata una vita in questo modo. Che tipo di risposta è stata quella di Stefania? Da esperto di risorse umane, Paolo Gallo, che interpretazione ne dai? Ma una bellissima storia che ti fa venire voglia di mangiare i suoi biscotti, ma anche di fare delle riflessioni. Vedo che nella vita di tutti noi ci siano dei momenti di discontinuità. In genere sono dei momenti brutti, succede qualcosa, perdi un lavoro, o nel caso di Stefania un momento bello, la nascita della figlia. E questi sono dei momenti che ti spingono a fare delle riflessioni su cosa vuoi fare dopo, cosa vuoi fare da grande e se le cose che stanno succedendo sono in linea con le tue aspettative, con le tue aspirazioni. E quello che mi è piaciuto ascoltando Stefania è che ha adoperato parole chiare, parole voglio godermi la figlia, voglio stare con lei, la casa, ho cercato di capire le mie passioni, le mie vere passioni, le priorità. Questo progetto mi ha dato molto passione, la figlia, l'energia, la voce. Tutte sono cose che dimostrano che questa persona ha seguito il cuore, ha seguito la voglia di fare qualcosa di nuovo, trovando in maniera assolutamente intelligente e anche molto pratica la capacità di fare qualcosa che a lei piace. Quindi una bellissima storia che tutti noi in genere abbiamo. Ci sono dei momenti nella vita, in genere intorno alla metà di quando abbiamo tra i 45 e i 50 anni, quando una persona dice and then what, cosa voglio fare dopo? Infatti. E Stefania l'ha capito prima perché è arrivata una bella bimba nella sua vita. Anche Monica a un certo punto si è chiesta e poi dopo cosa voglio fare ed è diventata una escape coach. Ma che cos'è l'escape coach, Monica La Saponara? Allora, un escape coach è una persona che sostanzialmente ti aiuta a fare quello che ha raccontato Stefania. E Stefania ha trovato dentro di sé delle risorse e, come diceva Paolo, appunto è stata molto brava nel riuscire a fare qualcosa in linea con le sue aspettative, con quello che lei era. E per tante persone è un percorso un po' più complesso, complicato, intervengono tante paure, ci sono soprattutto delle necessità, molte volte le economiche. Economiche, no? Certo. Esatto. E io sono partita in realtà come Stefania da me stessa, nel senso che ho deciso di fare questo lavoro dopo aver fatto un lungo percorso per capire che cosa volevo io veramente dalla mia vita lavorativa. E quindi sostanzialmente, siccome ho, lo dico con molta onestà, probabilmente all'inizio ho fatto tanti errori, ho fallito, perché pensavo che io avevo un lavoro molto bello. Ecco, spieghiamolo, ti occupavi di grandi eventi e di marketing per grandi brand televisivi. Che cos'è che a un certo punto non ha funzionato più? Ecco, quello che appunto dicevo era, inizialmente pensavo che fosse un'insofferenza legata al fatto che per quanto fosse un bel lavoro fosse stressante, no? Quindi comunque si lavora tanto, si passa tantissimo tempo, durante la nostra vita lavorativa passiamo tanto tempo con persone che poi in realtà non abbiamo scelto, no? Quindi ci nascono incomprensioni, tante cose diciamo che sono presenti in tutte le aziende. Io all'inizio pensavo fosse quella la mia insofferenza, poi piano piano però ho capito che in realtà mi stavo chiedendo che senso avesse tutto quello rispetto a me, no? Quindi un po' il discorso che faceva Stefania, quindi quanto questo mi importa veramente e quanto mi riempie la vita e quanto mi fa sentire che sto facendo qualcosa che lascerà un segno in qualche modo, ed è da lì che sono partita. E oggi invece la soluzione è consigliare agli altri come sfuggire a una condizione che non è più gradita, è così? Esatto, perché appunto facendo un lavoro su me stessa, quindi chiaramente con il supporto di persone che mi hanno aiutato, ho capito che tra le mie competenze innate, non dimenticando assolutamente quelle che avevo invece acquisito durante il mio lavoro, che sono state importantissime, però ho scoperto che tra quelle innate c'era la capacità di dare un supporto alle persone. Ed è da lì che sono partita da lì per fare questo lavoro di escape coach e per fare anche tutte le altre cose che poi ho deciso di fare nella mia vita. Paolo Gallo è l'autore di un saggio, Rizzoli, di grande successo, che io ho letto avidamente, trovandolo rivelatore per molte cose alle quali non avevo pensato. Il saggio si chiama La bussola del successo, le regole per essere vincenti restando liberi, perché è proprio spesso, no, la condizione di costrizione che fa sentire infelici nel posto di lavoro, è così? Sì, assolutamente, peraltro credo che sia opportuno riflettere cosa vuol dire rimanere liberi, perché è un concetto molto bello ma anche molto vago, che può essere interpretato in maniera diversa. Io non abito, sono italiano ovviamente, ma non abito in Italia dal 92, quindi insomma è da molti anni che non vivo nel mio paese, io sono di Milano, e italiano ovviamente, e credo che gli italiani pensino in genere che la libertà vuol dire l'assenza di regole, faccio quello che voglio. In realtà io penso che la libertà sia una cosa diversa, cioè, nel seguire le regole rendi la collettività più gestibile, più facile da vivere, primo, e secondo fai delle scelte che non ti rendono ricattabili. La libertà è questa, secondo me, no? Quindi cosa vuol dire fare delle scelte che non diventano ricattabili? Vuol dire fare delle scelte professionali basate su certi valori, su certe etiche che ti permettono, tra virgolette, di dormire tranquillo. Ecco, c'è un capitolo del libro, Il patto con il diavolo, il prezzo da pagare per la propria carriera. Qualcuno dice, no? Spesso, sono stato costretto a farlo perché sennò perdevo il lavoro. Che prezzo è accettare questa condizione? Che prezzo comporta? Questo è un prezzo molto alto, perché senza andare troppo indietro nella storia, cioè, tutti i condannati del processo di Norimberga del nazismo hanno detto: ma io ho semplicemente obbedito agli ordini, quindi la colpa era soltanto di una persona. E questa è una fandonia che uno si racconta, no? Cioè, obbedivo agli ordini, me l'hanno chiesto. Io mi ricordo qualche anno fa sono andato in un'azienda dove mi hanno chiesto di licenziare 11.000 persone in 6 mesi, gli ho dato dimissioni 5 secondi dopo. Sono stato disoccupato per un anno, è stato piuttosto difficile rimanere in quella situazione lì, però alla fine ho trovato un lavoro che mi è piaciuto. Questo non vuol dire che io sono bravo, gli altri non lo sono, ma ci sono dei momenti in cui ci sono delle scelte che uno deve fare, e nel fare la scelta che tu ritieni giusta, in linea e compatibile con i tuoi valori, e rimani libero. Il patto col diavolo è esattamente questo, di fare delle scelte che poi ti condannano, tra virgolette, a vivere in maniera molto poco piacevole con te stesso. Chi ha più successo nella fuga, Monica? Nel cambiare lavoro in tempi in cui, lo sappiamo tutti, chi ha un lavoro cerca di tenerselo stretto. Ha successo chi crede in quello che fa, e quindi fa, appunto, come dicevo prima, un lavoro un po' più su se stesso prima di iniziare a fare qualcosa. Cioè, quindi bisogna capirsi e capire che cosa uno è capace davvero di fare mettendoci della passione. Esatto, infatti, perché è un processo. Io quello che dico sempre alle persone che si rivolgono a me, nessuno deve lasciare subito il lavoro e dire cambio, no? Mi metto a fare qualcos'altro. È un percorso lungo. Paolo Gallo, ma nel libro che ho citato prima, nel tuo libro La bussola del successo, c'è una parte molto divertente in cui si esaminano con una categoria, diciamo, zoologica, secondo una categoria zoologica, tutti i vari tipi che si possono incontrare in un ambiente di lavoro. E dunque ci sono i polli, ci sono i pappagalli, ci sono le volpi, ci sono gli elefanti, poi ci sono anche i cani, che è una categoria molto rappresentata dalle donne. Sì, sì, è vero. Chi sono i pappagalli? Ma i pappagalli sono quelli che ripetono in maniera meccanica quello che dice il capo, ce ne sono sempre molti. Poi ci sono i cani, e i cani sono persone molto fedeli, molto leali, molto lavoratrici o lavoratori, molto spesso tante donne, che però sono un po', tra virgolette, sprovvedute e che non pensano magari ai loro interessi, anteponendo sempre quelli della famiglia, del marito, dei figli, della carriera. Poi sono quelli pericolosi, che sono quelli che lavorano per se stessi. Le volpi. Le volpi che poi diventano anche dei serpenti quando diventano particolarmente cattive. Lavorano per se stesse, grande intelligenza politica, ma persone che sostanzialmente hanno un'agenda personale. Che non... Come si riconosce una volpe? Beh, che non lasciano mai le tracce, e quando c'è un lavoro sporco mandano avanti qualcun altro, e che sono ossessionate dalla loro immagine, dalla loro reputazione, e quindi per i lavori sporchi mandano in genere i cani a farli. Invece poi alla fine ci sono i gufi o gli elefanti, che sono quelle persone sagge che hanno quella saggezza che è più forte rispetto semplicemente all'aspetto tecnico, quindi quella gravitas in latino, quella credibilità che hanno certe persone, di cui una persona è portata a fidarsi, e sono quelli che poi, come è successo anche a Monica, magari anche a me, diventano dei coach, che diventano delle persone che possono essere delle fonti di buoni suggerimenti e soprattutto di porsi delle domande. Quindi quando si avverte il bisogno di cambiare, un grande ostacolo davanti a sé, andare a cercare, scoprire se c'è un elefante, un gufo, quindi una persona saggia della quale fidarsi e confrontarsi con loro. Grazie a Paolo Gallo, grazie a Monica La Saponara, che sono stati con noi questa domenica. Grazie per aver seguito Il meglio di nessuno è perfetta. Noi torniamo domani, lunedì, con una fascia quotidiana che vi terrà compagnia per tutto il mese di agosto. Vi aspetto, a domani.